Scuola in controluce. Apriamo quest'ultima puntata di luglio e della stagione di Scuola in controluce con una mail che ci è arrivata qualche giorno fa, una mail che sembra davvero una favola. I protagonisti infatti sono un principe, una scuola felice e un preside, insegnanti e ragazzini entusiasti. Cara Radio 24, siamo la mamma e il babbo di un ragazzo meraviglioso che si chiama Matteo, o meglio detto il principe, e che oggi ha 16 anni. La scuola che lo segue è ancora la mitica Balabanov di Roma, che negli ultimi 2 anni ha ulteriormente aiutato il coinvolgimento di nostro figlio nelle attività scolastiche, installando una lavagna interattiva nella classe di Matteo, permettendo così il collegamento tramite Skype con i suoi allegri e festosi compagni di classe, che sono il suo collegamento con il mondo di fuori e soprattutto con i suoi coetanei. Da 2 anni è seguito da una proffa, mandata dal cielo, diciamo noi, con la quale è cresciuto in consapevolezza e stima di sé, anche se non gli è mai veramente mancata. Quest'anno siamo anche riusciti ad andare con la classe a teatro a vedere e sentire il flauto magico di Mozart. Che emozione, la musica dal vivo! Appena si sono accorti della sua presenza, gli artisti e la regia hanno deviato alcune parti della rappresentazione proprio davanti alla sua carrozzina. Nessuno dimenticherà più il sorriso beato e soddisfatto di Matteo. Infine, a giugno, per la fine dell'anno scolastico, abbiamo partecipato alla Festa della Natura, organizzata nella sua scuola. Sembra roba da poco, ma per noi sono dei punti fermi di gioia e di normalità, da richiamare durante i momenti più difficili, che non mancano davvero. Grazie dell'attenzione, Laura e Alessandro. Questa dunque la mail arrivata a Scuola in controluce. Non capita spesso di ricevere segnalazioni come queste, di scuole che funzionano e come funzionano, di presidi che collaborano. Non me ne vogliano i presidi, ma con tutto quello che hanno da fare in effetti non sempre è facile occuparsi di tutto al di là della loro buona volontà. Di genitori di ragazzi disabili contenti di come vanno le cose e che non sanno come ringraziare tutte le persone che nella scuola fanno a gara per assicurare il diritto allo studio anche a chi vive fra mille difficoltà. E allora, proprio perché non capita spesso di ricevere mail così positive, abbiamo deciso di chiudere in bellezza la stagione di questa trasmissione sentendo la mamma del principe Matteo, facendoci raccontare meglio la sua esperienza. E allora, eccola qua, mamma Laura. Matteo ha una malattia progressiva, è una leucodistrofia che gli impedisce i movimenti, e quindi è in carrozzina. È non vedente e a seguito di una tracheotomia per un'insufficienza respiratoria adesso è ventilato meccanicamente e quindi non riesce a affonare più, insomma, quindi non riesce a parlare. Però il suo livello intellettivo è molto alto, è un bambino molto vivace e riesce a comunicare con la mimica facciale, con le sopracciglia alzate indica il sì e con un gesto della testa indica il no. Facciamo sempre delle domande chiuse in modo che lui possa semplicemente rispondere con un sì o un no. E lui ci tiene molto comunque ad imparare le cose, quindi assolutamente sì. Non può andare a scuola, però che cosa fa? La scuola che sta frequentando adesso è l'Angelica Balabanov, sta frequentando la seconda media. Già dalle scuole elementari era ospite appunto in questa scuola e a volte ha potuto frequentare perché diciamo che la ventilazione meccanica è intervenuta qualche anno fa, quindi alcune presenze scolastiche le ha potute effettuare, insomma, potuto andare a scuola. Ecco, però la vostra esperienza con la scuola romana è assolutamente positiva. A me arrivano tantissime segnalazioni di ragazzi con gravi disabilità o più o meno gravi disabilità che lamentano una scarsa collaborazione, lamentano un ambiente a volte addirittura anche un po' ostile, non sempre davvero, però capita anche questo. Invece voi vi siete ritrovati davvero in una scuola felice? Sì, ci siamo ritrovati in una scuola che ci ha accolto anche i genitori dei bambini e i bambini stessi. Noi con la scuola elementare avevamo preparato un video girato qui a casa e l'abbiamo fatto vedere ai bambini in classe per capire appunto chi era il loro compagno assente che veniva nominato a tutti gli appelli e che però era assente ma presente con lo spirito, diciamo, e quindi loro erano abituati sempre a sentire Matteo comunque presente in mezzo a loro e con il video hanno capito che tipo di difficoltà aveva e periodicamente venivano organizzate dalla scuola delle visite a gruppetti di bambini 2 o 3 per volta e appunto poi loro ci sono stati a tutte le regole di casa, noi indossiamo delle scarpe che proteggono, delle scarpette protettive per non portare germi, e le mascherine se qualcuno ha raffreddore, quindi loro volentieri si sono sottoposti a questa cosa e senza nessuna difficoltà raccontavano gli episodi che succedevano in classe, e quando non potevano venire mandavano delle audiocassette per far sentire dei pezzi di lezione o delle cose particolarmente carine che erano successe a scuola.